Riconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. In cui torniamo a parlare di calcio, allora cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, cercando, come ho detto, di adottare un criterio univoco, armonioso, che rispetti tutti quelli che sono i valori di una sana competitività. In questo momento sono molto preoccupato perché vedo all'orizzonte altre giornate, almeno la prossima giornata da gestire, ed è una cosa veramente difficile alla luce anche di un calendario che è compresso di impegni. Le partite o si giocano tutti o se no si ferma il campionato, perché giocare una partita il 13 maggio è diversa di giocarla oggi, c'ha un valore diverso. Siccome ci sono tanti soldi in palio, le società di calcio sono aziende, bisogna fare robe fatte bene, non la scusa dei tifosi non tifosi, si può aspettare dopo le date non date, però bisogna fare le robe fatte bene. Che non hanno proprio un senso. Mi dispiace perché questo campionato è stupendo, ha delle lotte stupende come lo scudetto, la Champions, l'Europa League e la salvezza, e credo che una decisione del genere sia per dare senso soltanto a quelle 3, 4, 5 società che hanno i propri interessi. Io mi sarei aspettato invece una lettera della Lega che avesse scritto e avesse detto al governo: se voi ritenete che ci siano gli estremi, che il campionato debba fermarsi, facciamo anche quello, perché che ci interessa di un campionato che ormai è irregolare? Oh ragazzi, che bell'ambientino, carissimo Carlo, ciao. Beato te che vai in ferie questa sera. Tocca a te, da domani tocca a te, non ti invidio tantissimo. Che bell'ambientino. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao. Allora, diamo subito i contatti, oggi l'ordine categorico che impartisco a Edoardo Lavezzari. Faccio un comunicato come la Lega Calcio ieri. Impartisco a Edoardo Lavezzari, autore di questa puntata, a Valeria Bernardi che è di là dietro il vetro in regia in attesa della sua Roma. Beata lei che riesce a vedere la Roma che gioca a calcio. È passare più telefonate possibili. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta fino alle ore 19. 349 238 6666 sms e whatsapp. Vi dico già che ieri il sondaggione che abbiamo messo a mezzogiorno fresco e che si è appena chiuso da un 68% contrario alla scelta di fermare, di rinviare le partite, e una minoranza che invece dice giusto così. Sai cosa vuol dire, vocabolario Treccani, il verbo falsare, che è il più usato di questa domenica d'inizio marzo, carissimo Pier? Che vuol dire? Vuol dire falsare, rendere non perfetto, non corretto, non veritiero qualcosa. Dunque vuol dire esporre, descrivere, rappresentare in modo contrario al vero o diverso dall'originale, alterare e travisare. È la parola, il vocabolo, il verbo più usato di questa domenica. Allora adesso noi parliamo, al di là degli scherzi, 800 24 00 24, anche perché siamo in realtà work in progress. Stanno ancora ragionando se c'è l'ipotesi, ad esempio, di far giocare Juventus-Inter mercoledì o giovedì di questa settimana, non di maggio, di aprile o di chissà quando, perché è la richiesta, ad esempio, che ha fatto Napoli. Il Napoli ha detto: spostate la semifinale contro l'Inter, fate giocare loro, perché il campionato deve avere una sua regolarità. Però al momento non c'è ancora una risposta, anche perché a mezzogiorno oggi si sono visti, o meglio si sono sentiti, in consiglio di Lega straordinario, e c'è un nulla di fatto, si rivedranno mercoledì a Roma, mercoledì. E poi c'è lo scontro durissimo tra Marotta. Se si vedono mercoledì, allora però Pier, dopo ieri io direi che vale tutto può succedere, cioè, in realtà per spostare le due semifinali di Coppa Italia basta che lo facciano entro le 14 di mercoledì. rimandano il Milan a casa, dicono all'Inter di non viaggiare, sì, di organizzare tutto, però poi devono dire che Inter e Juventus di giocare cinque partite fra mercoledì, per giocare 5 partite mercoledì sera, è diciamo, chiaro che il mio è un paradosso, è una provocazione, sapere, certo, certo, è una provocazione. No, dicevo dello scontro durissimo. Allora, questa mattina Marotta sui giornali, fondamentalmente il campionato è falsato, sia chiaro che non esiste alcun discorso, alcun ragionamento sulla possibilità domenica prossima di giocare Inter Sassuolo a porte chiuse o di spostarla lunedì, il che tradotto significherebbe far saltare il campionato. Oggi la risposta del presidente della Lega Serie A d'Alpino, dettata all'Ansa. Venerdì l'amministratore delegato De Siervo e io abbiamo proposto all'Inter di spostare la gara contro la Juventus a lunedì sera per disputarla a porte aperte. L'Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato. Quindi questa è la sintesi della risposta di D'Alpino, controrisposta di Marotta, sempre dettata all'Ansa. Abbiamo ricevuto un'ipotesi informale ed aleatoria da parte dell'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo nella serata di venerdì, che non abbiamo voluto neanche tenere in considerazione in quanto impraticabile e quasi provocatoria. Improponibile per tre motivi specifici: il primo perché sarebbe andata contro la logica della tutela della salute pubblica, presupponendo la scomparsa dell'allarme coronavirus nel giro di 24 ore, secondo perché lo stadio sarebbe stato aperto ai soli tifosi bianconeri e terzo perché ci sarebbero stati problemi di diritti TV per lo spostamento delle semifinali di Coppa Italia. Insomma ragazzi, un bel casino. Allora vi chiedo, mi date subito la sintesi del vostro pensiero, Pier, Carlo? Sospendiamo il campionato, dai, ci vediamo a presto. Andiamo tutti, con Carlo. Andiamo tutti in vacanza. In ferie. No, a parte le battute, guarda, la verità è che chiaramente adesso tutti contro tutti, è una guerra termonucleare, antiche rivalità vengono rispolverate, la situazione non è semplice da gestire. Io lo dico sinceramente, appoggio la proposta del Napoli, perché secondo me adesso, al di là di Juve-Inter, che chiaramente è la partita che fa più discutere, fa più rumore, spostare 5 partite, quindi penso anche per esempio a tutta la zona salvezza, al 13 maggio significa oggettivamente incasinare e veramente poter alterare gli equilibri. In quelle partite lì ci sono Parma Spal, Sassuolo Brescia, oggi sono partite che hanno un senso e un valore. Il 13 maggio, a maggio magari qualcuno sarà già salvo, qualcuno sarà già retrocesso. Sì. Oggi parecchio, aggiungo, no? Un altro tassello: il presidente del Lecce Semeraro, prima della partita con l'Atalanta, l'unica che si è giocata questo pomeriggio, tra l'altro giù il cappello davanti all'Atalanta. 7 gol a 2, quota 70 gol segnati nelle prime 25 partite di campionato. Non esiste neanche più il cappello. Non esiste più neanche il cappello. Ilicic straordinario. Però il presidente del Lecce Semeraro, prima della partita, candidamente ha detto: ma io ieri ho telefonato al presidente della Lega e mi ha detto: guarda, noi l'abbiamo messa al 13 maggio perché formalmente ci serviva una data, ma stai tranquillo che si recupera prima di Pasqua. Si recupera prima di Pasqua è vago. Io sono d'accordo sul fatto che giocare il prima possibile, perché ha ragione Gattuso, giocare il 13 maggio è una cosa diversa, è un altro film, è un altro campionato rispetto a giocarla adesso. Poi se Juventus e Inter la smettono di scazzarsi in un momento come questo è pure meglio, e qui si tratta di ristabilire la verità. Io non so se la proposta, non è compito di Marotta verificare la tutela della salute pubblica, né i problemi della RAI sulla Coppa Italia. Coppa Italia si può anche spostare, non credo nemmeno che sarebbe stato aperto ai solo tifosi juventini, credo sia una questione geografica, sì, non di tifo. Cosa ovviamente, che però è difficile, esatto, anche da capire, perché poi in realtà... se c'è il blocco mercoledì in Coppa Italia per i tifosi che vengono da Lombardia, Emilia, Romagna e Veneto, tanti, probabilmente sarebbe stato a specchio anche per Juventus Inter lunedì sera, certo, ma valeva anche eventualmente per i tifosi juventini. Però qui la verità, Pierre, è che ci sono versioni che si accatastano, no? Una dopo l'altra. Sì, sì. Sì, no, questa cosa però è un elemento ulteriore, lo diciamo, molti già lo sanno, però è importante da dire, cioè la Juve ha tanti abbonati e tanti tifosi che vengono non dal Piemonte ma dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia Romagna, quindi c'è un tema secondo me anche legato a tutto questo. Io quello che ho detto l'altro giorno non è che ho cambiato idea, io l'altro giorno tutti convocati, non mi ricordo se giovedì o venerdì, ho detto che è chiaro che se l'idea è quella di mandare un messaggio rassicurante, qui non parlo di calcio ma parlo di paese, giocare stasera in contemporanea con Real Madrid-Barcellona, che sarà a porte aperte, sarà uno spettacolo pazzesco, giocare Juve-Inter a porte chiuse sarebbe stato veramente un autogol, se questa è l'idea. Così ci siamo andati vicini uguali. Sto parlando di turismo, di industria, di non fare la figura di quelli che hanno infettato, scusa te la faccio molto semplice, l'intero continente e che non hanno fatto i controlli, ecco. anche perché io non credo che sia così. Io penso, da quello che emerge sempre più chiaramente, che in Italia abbiamo avuto un approccio a questa emergenza molto attento a livello medico, forse più scrupoloso e più rigoroso rispetto ad altri paesi, ma non faccio il virologo e quindi mi fermo sì, qui. Per fortuna ci fermiamo al calcio, è già un bel casino oggi. Ci fermiamo al calcio, è già un bel casino, però è ovvio che insomma Juve-Inter a parte chiuse non sarebbe stato un grande spettacolo. L'ipotesi del lunedì era un'ipotesi che ci poteva stare, poi è ovvio che il virus non è che in 24 ore sparisce, o l'emergenza in 24 ore sparisce, ma allora questo vale pure per Juve-Milan di mercoledì prossimo. Non so, sì, però qui siamo andati oltre, Pier, perché secondo me il dato oggi è lo scontro ad altissimo livello tra l'Inter e la Lega Serie A, non l'Inter e la Juventus, l'Inter e la Lega Serie A, con ovviamente il retropensiero di milioni di tifosi interisti, e cioè che il calendario l'abbia cambiato Agnelli, cosa che a me non risulta, però adesso cercheremo di ricostruire, abbiamo diversi testimoni delle ultime. Aspetta, Pier, perché abbiamo il traffico anche oltre ai testimoni, tanto abbiamo tempo più di mezz'ora per parlarne. 800 24 00 24. Io vi convoco in diretta, voglio sapere da voi se siete d'accordo o no con la scelta che è stata fatta e quale secondo voi è la scelta migliore per gestire da qui in poi la situazione del campionato di Serie A. Traffico, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati. Qui un problema di regolarità sportiva. Per non avere dubbio su questa regolarità, io penso che se non ha una partita non deve avere nessuna partita. O se gioca una partita, gli altri devono giocare. Può essere porta aperta, porta chiusa, ma penso che se ha una partita devono giocare. Allora, questo era Fonseca, allenatore della Roma. Faccio ammenda al presidente del Lecce, quello di adesso si chiama Sticchi Damiani, e quindi va bene, perdonatemi. Comunque quello che ha detto è quello che vi ho riportato. Prego, Pier. No, che la cosa quasi quasi ironica è che la Roma, che è la squadra che è più stanca di tutte perché ha giocato giovedì sera, continua a giocare, è l'unica che gioca praticamente a meno di 72 ore dalla partita precedente, che è un ulteriore picco, per carità, rientra nella norma, i tre giorni ci sono, però fa abbastanza ridere. Ma io sono ci sono anche altri cortocircuiti, anche la storia di Atalanta-Lazio è incredibile, penso che mercoledì, ovviamente se ci sono le condizioni mediche, perché questo è il punto di partenza di tutto, ma se ci sono le condizioni mediche, che però ci sono, perché si gioca Juve-Milan a porte aperte o comunque semiaperte, si può giocare anche Juve-Inter, mercoledì o giovedì, insomma quello che è, sarebbe giusto recuperare queste 5 partite e spostare poi la Coppa Italia per una sorta quasi al limite anche una specie di Final Four, anche se ovviamente il risultato dell'andata delle semifinali già c'è, verso la fine della stagione, certo. Mi sembrerebbe la soluzione, il male minore, ecco, male minore. Vediamo, fatemi salutare Alessandro Barbano, Corriere dello Sport. Ciao Alessandro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, non ti faccio la sintesi dei messaggi che stanno arrivando a tonnellate, ma diciamo, se vogliamo provare a dargli un filo logico, ci sono gli interisti contro gli juventini, ci sono i fatalisti, quelli che il coronavirus è un'emergenza più importante di tutto il resto, perché è stata a parlare di calcio, perché parliamo di una delle prime 10 industrie del paese. Però prego, come se ne esce, Alessandro? Parliamo di calcio perché è chiaro che le emergenze attraversano tutti i mondi e quindi anche il calcio le deve affrontare. E se ne esce con molta difficoltà, perché la decisione della Lega di ieri è una decisione irrazionale, è una decisione che dimostra come purtroppo il calcio sia ancora uno spazio primitivo, abitato da appetiti individuali che fino alla fine, anche in guerra, anche quando c'è un'emergenza di questo tipo, pensano a difendere i propri interessi e a giocare con l'emergenza. Questo è vero, ma infatti è chiaro che l'Inter avrebbe banalmente preferito giocare stasera senza pubblico della Juventus, con una Juventus in difficoltà. La Juventus preferisce evitare, però non deve essere questo il punto, il calendario non li fa né Agnelli né Marotta. Queste due cose le diciamo con chiarezza, è chiaro che la Juventus non è dispiaciuta della piega presa dagli eventi, così come è comprensibile che l'Inter abbia pensato fino all'ultimo di giocarla questa sera a porte chiuse contro la Juventus in difficoltà, senza pubblico, eccetera. Però andiamo oltre, perché poi c'è tutto il resto dietro, no? Prego, Alessandro. Andiamo oltre. Diciamo che poi ci dovrebbe essere un'istituzione, anzitutto ci dovrebbe essere un senso di responsabilità delle società che da 4 giorni protestano contro lo stop ai campionati e contro le porte chiuse e contro tutte le misure del governo. Quindi non possono poi, una volta che il governo apre, fare il contrario, perché c'è un problema di coerenza. Fra l'altro, il presidente del CONI ha fatto un appello a riportare il calcio alla normalità, quindi questa è una misura che poi va contro la normalità. E poi c'è la Lega, che la Lega deve avere una lucidità, una terzietà che in questa circostanza non ha dimostrato minimamente, cedendo alla pressione di una società che in questo momento, probabilmente, per non voglio fare illazioni, certamente è chiaro che giocare una partita come questa nelle condizioni in cui si trova in questo momento la Juve sotto il profilo agonistico, sotto il profilo di morale, di risultati, non giova, e quindi approfittare dell'emergenza per spostare questa partita è stato un errore clamoroso che la Lega ha consentito, creando una situazione difficilmente governabile, anche perché diciamo, bruciare maldestramente una cassa di riserva utile nell'eventualità di un aggravarsi della crisi del coronavirus è significa che dopo non ci saranno più le date sì, utili. C'è il rischio che si fermi tutto. Sì, poi si è fatto anche un danno se... nazionale, si è fatto un danno nazionale, si è fatto un danno anche alla capitale, perché si è sposata fino a Coppa Italia. Sì, aggiungo solo un elemento, poi faccio l'avvocato del diavolo, in questo caso della Lega Serie A. Ti dice, ma noi la proposta di giocare lunedì, quindi sempre con la Juve in crisi, l'avevamo fatta, e l'Inter che ha detto di no, dice ancora D'Alpino, presidente di Lega, ma insomma anche in Premier League succede che ci siano club con 2-3 partite in meno che devono recuperare e nessuno fa drammi. È chiaro che la Lega ha avuto di autorevolezza, quella proposta è una proposta fascista che fa un mediatore. La Lega non è un mediatore che deve cercare di dirimere la competizione sportiva tra le società. La Lega è un'istituzione che deve valutare le decisioni in base all'interesse nazionale e alla regolarità del calcio. Quindi quella proposta è una proposta fascista che, fra l'altro, è chiaro, pone l'Inter in una condizione di svantaggio, perché avrebbe giocato in uno stadio con il pubblico solo degli Juventini, e quindi l'Inter, in una posizione altrettanto pazzia come quella della Juve, ha risposto no grazie. Ma è la Lega che ha sbagliato, perché la Lega non deve consentire una trattativa sulle sorti del campionato sfruttando l'emergenza, per motivi che con l'emergenza non hanno nulla a che vedere. Allora, Alessandro, il compito della Lega in questo momento sarebbe quello di giocare il prima possibile questa partita, perché giocare il prima possibile queste partite, per le ragioni che ha detto ieri Pierluigi Pardo, poi decidono di il prima possibile, che decidono l'impero, perché sennò allora davvero si può stare con la teoria del campionato falsato. Però il problema è che una volta che tu ti poni dentro una logica di mediazione fra interessi divergenti, non sei più istituzione, e quindi non, ogni volta che assumi una decisione, da oggi in poi, devi avere l'accordo delle società, mentre tu devi decidere non pattiziamente sulla base degli interessi in campo. Questo è il problema, il calcio non è evoluto, e questa Lega è una corporazione trecentesca, come erano, diciamo, le leghe artigiane dei comuni del 300, ma noi siamo nel 2020, il calcio è un'impresa multinazionale, finanziaria di grandissima importanza, e avrebbe bisogno di istituzioni adeguate ai soldi che girano almeno. È uno dei primi 10 sistemi industriali di questo paese. Noi cerchiamo di volare alto, poi arriva il messaggio, dite a Barbano che la Lazio è stata l'unica favorita. Mi risulta che Lotito non fosse per nulla contento, perché avrebbe preferito che Juventus e Inter si scannassero stasera Lazio, in queste condizioni. La Lazio può aver beneficiato, ma qui il problema non è questo. Il problema è che l'unico soggetto che non può porsi in una posizione di arbitro deve essere la Lega. Se la Lega diventa un arbitro è la fine, perché qui gli interessi divergenti sono tanti, ed è chiaro che riscrivere le regole del campionato in corso è la cosa più difficile che si possa fare. Certo. No, posso fare una domanda veramente da profano? Vi assicuro che io di questioni di politica sportiva ne so zero, quindi Capuano e Barbano per me sono, io e Genta siamo i due naif, perché poi se andiamo a guardare la composizione dei vertici della Lega Calcio, mi pare che insomma l'Inter sì, che Marotta c'è, quindi no veramente e infatti chiedo, Marotta lo dice chiedo, D'Alpino ha fatto tutto da solo candida, cioè in maniera assolutamente candida, cioè com'è possibile che una degli organi che hanno al loro interno sicuramente più Inter che Juve, tanto per capirci, poi partoriscano una decisione come questa. Voi che lettura date? Domanda interessante, la mia risposta sta nel botta e risposta. Marotta dice a noi è arrivato un comunicato, nessuno ci ha detto niente. D'Alpino dice noi abbiamo sentito telefonicamente tutti per far sì che fosse il più possibile condivisa la decisione. Uno dei due, io non dico che mente, ma uno dei due non la racconta fino in fondo. C'è un cortocircuito sicuramente. Alessandro? Ma è chiaro che una decisione del genere non si può prendere dal Brasile o piuttosto dall'America da al Seattle. Telefono, questo è evidente. Io non so come siano andate le cose, quindi non voglio fare illazioni, ripeto, questa è una di quelle situazioni in cui la Lega deve fare uno scatto di terzietà e non l'ha fatto. Questo è molto grave. Grazie Alessandro. Ciao. Grazie a voi. Grazie Alessandro Barbano. Sì, ci sono tanti livelli di cortocircuito in questa vicenda. C'è ad esempio l'Inter che se dovesse arrivare in fondo in Europa League, in Coppa Italia, non ha date già adesso per recuperare nemmeno una delle due partite, perché l'Inter deve recuperare anche quella con la Sampdoria. E questo evidentemente è un problema per portare a compimento questa stagione. Il che significa che in un certo senso il sistema calcio italiano ha scommesso a perdere sull'Inter, cioè o tifa che vada fuori in Europa League o tifa che vada fuori in Coppa Italia, il che è un problema ulteriore perché la Coppa Italia dipende dal sistema calcistico italiano. Io non vorrei essere nei panni dell'arbitro che giovedì sera, poi ne parleremo con Luca Marelli, va a fare Napoli-Inter se si gioca Napoli-Inter. Sì. C'è da dire che martedì c'è questo congresso ad Amsterdam ed è probabile che... visto che purtroppo l'emergenza non riguarda soltanto l'Italia, ma riguarda tutta l'Europa, riguarda tutto il mondo, che qualcosa cambi. Ad esempio che quello slot per le nazionali con tante amichevoli, alcune partite marzo, sono sì. Ecco, quello di fine marzo possa in qualche modo subire delle alterazioni se ci si renderà conto che altrimenti non si riesce a chiudere la stagione. Però attenzione perché ci sono i playoff per l'europeo. Come fai a chiedere a una squadra di giocare senza Milinkovic, Savic, Pjanic, Dzeko, mettete voi tutti gli altri che vi vengono in mente. Infatti aspetta Pierre che abbiamo due telefonate, 800-24-0024, Christian, provincia di Genova, vai Christian. Ciao a tutti, allora io volevo intervenire appunto sul rinvio, cioè secondo me è assurdo, premetto, sono interista, è assurdo che la Lega di Serie A, che come obiettivo deve avere quello di portare a termine il campionato nonostante tutto, scelga come criterio quello di rinviamo le partite, non sapendo appunto quanto possa durare l'emergenza, e quindi mettendo a rischio sostanzialmente il concludersi del campionato, e non abbia considerato appunto le porte chiuse che sì, potevano aver danneggiato la Juventus, ma potevano danneggiare l'Inter contro il Sassuolo domenica prossima. E sostanzialmente andare a scommettere, come ha detto appunto Capuano prima, sull'uscita dall'Europa League o dalla Coppa Italia. Il mio Christian è un paradosso, anche se poi tu incroci il calendario e ti accorgi che è così. Io faccio sempre l'avvocato del diavolo. A noi è stato detto, ti dice la Lega, che alla mezzanotte in alcuni stadi precedentemente immaginati chiusi si sarebbe potuto giocare con pubblico, parte del pubblico. Il nostro interesse è quello che la gente entri a vedere la partita, soprattutto Juventus-Inter, che è un'immagine che va in tutto il mondo. Poi lascio a voi le considerazioni. Marco da Vercelli, Marco. Sì, buongiorno. Vai. A parte questo cortocircuito che si è creato, è anche un po' patetico perché la gente muore, fa finta di niente e parliamo di cavolate, secondo me. Torniamo indietro a Calciopoli, facciamo manifestazioni sotto la Lega, cioè... incredibile, cioè invece di pensare al bene delle persone pensiamo a complotti. Perdonami un secondo, in questa radio, perché noi rispondiamo di questa radio, dalle 6 del mattino a mezzanotte si discute di economia, di socialità, di scienze, di medicina, ci sono gli esperti che da 10 giorni ci spiegano tutto sul coronavirus. Poi c'è un'ora durante la settimana e la domenica in cui parliamo di un'industria che comunque è da miliardi di euro. Noi di questo ci occupiamo. Anche perché bisogna uscire dalla logica di sono 22 milionari che rincorrono il pallone. Qui stiamo parlando di un settore importante. Allora, attenzione. Vai avanti. Scusatemi, io parlo anche contro me stesso, nel senso che io sono abbonato, quindi potete capire che sbattimento ha avuto e che cambi di programmi che ha avuto, no, in questi giorni. Però scusate, c'è un ministero dello sport, c'è un organigramma, no? Come in tutti i paesi democratici, c'è un ministero dello sport, ci sarà una federazione, c'è una lega. Loro sono preposti a decidere. Quello che decidono deve andare bene a tutti. Allora Marco, facciamo così, resta in collegamento. Adesso ci fermiamo per un minuto. Quando torniamo c'è Xavier Iacobelli e ti leggo che cosa ha detto oggi sul Corriere della Sera il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Tutti convocati. La Lega si deve fare garante in questo momento di una tutela di tutti i club con grande equilibrio, cercando soprattutto anche di salvaguardare quel patrimonio che abbiamo dei tifosi. In questo momento forse è stato un pochettino messo da parte e va valutato nel suo complesso, e la Lega deve essere brava in questo momento a dare forza al campionato di Serie A. Questo Umberto Marino, Atalanta, e vi leggo che cosa ha appena battuto l'Ansa. Il Brescia, che in questo turno avrebbe dovuto affrontare la partita col Sassuolo a porte chiuse, ha inviato una lettera di diffida alla Lega di Serie A, chiedendo che i recuperi siano fissati in date più prossime rispetto al 13 maggio e riservandosi ogni più opportuna azione risarcitoria nei confronti dei soggetti individuali e collettivi autori delle scelte con la presente censurate. Saluto Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport. Ciao. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori di Tutto Sport. Ciao direttore, allora il ministro Spadafora questa mattina sul Corriere della Sera, so che c'è anche altrove ma insomma per comodità prendo questa parte dell'intervista al Corriere della Sera, domanda: la partita di cui si parla di più è ovviamente Juventus-Inter, cosa risponde a chi sostiene che il campionato è falsato dai rinvii? Risposta: in un momento con più di 1000 contagiati e quasi 30 morti non è il mio primo pensiero, capisco le rimostranze dei tifosi ma non può essere questa l'ottica da cui giudicare decisioni difficili. Ora spetta alla Lega fare di tutto, anche smontare e rimontare le giornate se occorre per equilibrare il calendario nelle prossime settimane. Pretendo che non resti neanche l'ombra del sospetto sulla regolarità del campionato. Allora, direttore. Ma io credo che ci sia un punto da evidenziare in questo caravanserraglio di cui siamo stati testimoni in queste ore. E il punto è che l'emergenza coronavirus nel nostro paese non è scattata ieri, l'altro ieri, quattro giorni fa. Il punto è che le società della Lega di Serie A, il cui consiglio straordinario oggi, come prevedibile, si è risolto con nulla di fatto, rimandando ad un'assemblea straordinaria mercoledì a Roma. Ma la domanda è: ma la Lega si rende conto della gravità della situazione oppure no? Ma che perché già una settimana fa non ha riunito tutti i club a costo di murarli in via Rosellini fino a quando non fosse stata trovata una decisione e una sola, una strategia unica, uguale per tutti, senza fare figli e figliastri? Ma io francamente rimango stupefatto di fronte a questo atteggiamento. Ma come l'assemblea straordinaria mercoledì a Roma? Ma dovevate riunirvi una settimana fa? Dovevate decidere una settimana fa? Ma non è possibile stabilire... Oppure anche senza riunirvi, però insomma con tutto lo smart working del quale si parla. Perché incontrarsi mercoledì significa già per esempio bocciare la proposta del Napoli, che ripeto, nel momento nel quale il Napoli è d'accordo, credo che l'Inter sarebbe d'accordo, penso anche Milan e Juve, mi sembra la proposta di maggiore buonsenso, cioè giocare le cinque partite che sono state rimandate in questa settimana, il mercoledì, e a quel punto poi tenersi uno slot per la Coppa Italia più avanti. Ma anche perché ha ragione il Brescia nell'inviare la diffida, che si giochi il prima possibile, perché se no rimane il discorso di qui sopra, si può usare la parola falsato. Ma infatti in questa vicenda ciò che è mancato è il buon senso, e quando io dico che già una settimana fa si doveva riunire, è chiaro che a seconda delle varie circostanze, visto che abbiamo parlato molto in questi giorni dell'esaltazione del telelavoro, di un FaceTime, di un WhatsApp, qualunque strumento può fosse stato consentito usare, ma bisognava affrontare il problema molto prima. Invece qui, come al solito accade nel mondo del calcio ai massimi livelli, tra l'altro stiamo parlando di un sistema che il presidente del CONI Malagò nei giorni scorsi in un'intervista rilasciata a Corriere dello Sport Stadio rappresenta il 2% del PIL, del prodotto interno lordo del nostro paese, più l'indotto, quindi non stiamo parlando di un circolo dopo lavoristico, di 22 milionari che corrono dietro un pallone. No, non è così. Quello che veramente irrita, ed uso un eufemismo perché le proteste dei tifosi a qualunque squadra essi appartengano sono assolutamente legittime, ma i sostenitori dell'Atalanta mercoledì a loro è stato detto che non potevano andare a Lecce, poi è stato detto che lo stadio sarebbe stato aperto loro, poi che sarebbe stato richiuso e ieri mattina che sarebbe stato riaperto. Ma è normale questo? No, ma non è neanche normale che ai tifosi dell'Atalanta venga detto che non si può anticipare di 24 ore la partita con la Lazio perché la Lazio non è d'accordo, e poi assistano al presidente di Lega che fa il presidente di Lega da un certo punto di vista e decide d'imperio di cambiare il calendario della giornata di oggi. Del regolamento, articolo 29, che impone al presidente di Lega, in caso di mancato accordo fra due società, come il caso che stiamo esaminando, di intervenire. Ma noi abbiamo una squadra impegnata nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League, peraltro l'unica italiana che ha vinto all'andata, che chiede di essere trattata come è stato giustamente trattato il Napoli, che ha anticipato la partita con il Brescia il venerdì perché il martedì aveva il Barcellona al San Paolo. Ragazzi, la lettera di Cellino alla Lega, presidente del Brescia, è un massacro, se posso sintetizzarlo così, perché c'è un passaggio che dice c'è il vivo disappunto per la scelta di rinviare le partite, la stessa scelta assunta senza alcuna preventiva consultazione con le associate. Quindi diciamo che in questa ricostruzione a tasselli, noi abbiamo detto ad esempio, ci sembra strano che Juve-Inter il lunedì sera fosse aperta solo ai tifosi della Juve, perché se poi il mercoledì comunque tre regioni sono escluse, è possibile che sia una sintesi fatta da Marotta giornalistica, ma quella versione lì non collima fino in fondo. Ma la versione precedente di D'Alpino fa acqua da tutte le parti. Adesso io cerco di parlare semplice, e se un presidente ti dice qui nessuno ci ha chiamato prima di spostare, no, direttore. No, ma non solo, c'è un nuovo capitolo che presumo ne abbiate già parlato, che è arrivato adesso, cioè che D'Alpino, c'è la controreplica di D'Alpino, perché prima aveva detto, avevamo proposto alla Juventus, all'Inter, pardon, di giocare Juventus Inter il lunedì, Marotta invece ha replicato, trattasi di una proposta che non stava né in cielo né in terra. Adesso D'Alpino ha controreplicato dicendo che l'alternativa era giocare il mercoledì a porte aperte o il giovedì, facendo slittare la Coppa Italia. Quindi che sarebbe la proposta del Napoli? Ognuno che sarebbe anche quella più razionale, migliore, che è la proposta migliore però fatto che si giochino tutte e cinque, nel senso è la proposta migliore per garantire al campionato di andare avanti in una maniera un pochino logica. Questo è. E poi su Atalanta Lazio sono d'accordissimo, nel senso che poi secondo me alla fine, a parte che l'Atalanta se la gioca comunque anche se gioca il sabato e non il venerdì, però quella è una forma di attenzione che devi avere nei confronti del calcio italiano, perché insomma, perché poi è inutile dire, Luigi, che poi il presidente della Lega vada negli Stati Uniti per cercare di vendere nel modo migliore i diritti televisivi del nostro campionato. No, perché nel momento in cui tu hai una squadra che peraltro è protagonista di un exploit assoluto, che chiede di essere trattata come le altre, come giustamente è accaduto per altre squadre italiane impegnate nelle Coppe Europee in sede di richiesta d'anticipo, non si capisce perché questa richiesta non possa essere accordata. Ti nascondi dietro la contrarietà dell'altro club. Grazie, direttore. Ciao. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Grazie a Xavier Iacobelli, direttore del Tuo Sport. Lo ripeto l'ultima volta perché state scrivendo in tanti. Noi ospitiamo l'opinione dei nostri valentissimi ospiti e ciascuno ha la sua. Noi abbiamo detto la nostra all'inizio impostando questa trasmissione. Volevamo andare oltre il concetto ha scelto Agnelli, ha scelto Marotta. Secondo noi non ha scelto Agnelli, secondo noi non ha scelto Marotta. C'è un problema molto più alto di politica sportiva e c'è un cortocircuito che rischia seriamente di far saltare il campionato. Questa è la nostra impostazione ed è una cosa seria di cui parlare. Poi andate avanti a dividervi, non c'è problema, tra interisti, juventini, anti-interisti, nostalgici di Marotta, fate quello che volete, ma questo è quello che pensiamo noi. Dentro questa trasmissione chi interviene ovviamente ha libertà di esprimere in maniera articolata ed educata le sue opinioni. Federico da Pordenone. Federico. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Per rapidissimamente, considerando che all'Inter e ad altre squadre manca già una partita, al mio avviso, sarebbe forse il caso di dire o mercoledì, se sono d'accordo le squadre tipo Napoli, Juventus e Milan per la Coppa Italia, oppure direttamente domenica, si recuperano le quattro partite, quindi quelle 3-4 partite che mancano di quelle squadre che restano, in più si sposta la giornata, questa giornata qui, alla prossima giornata, quello che resta. Facciamo slittare, questo slittare è il senso, che è uno dei tabù. Che tutti, e dopodiché l'Inter, perché vedevo oggi in trasmissione, in una trasmissione televisiva, l'Inter rischierebbe di giocare l'ultima partita se arriva alla fine, dopo... alla fine del campionato. Sì, a questo punto qua, sì, ma è chiaro che a maggio l'Inter non ha più date, ma questo è stato ampiamente sottolineato, a meno che non esca in fretta dall'Europa League, ma è un controsenso. Poi scrive un amico: mi fate sapere perché i residenti di Bergamo oggi sono potuti andare a Lecce, no, e quelli di Milano mercoledì non possono andare allo stadio della Juventus. No, noi non te lo facciamo sapere. Primo, perché non facciamo i virologi, non facciamo i ministri e non l'abbiamo capito nemmeno noi. Aspetta, traffico, andiamo in Spagna, che stasera alle 21 ci divertiamo col classico. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Diamo una boccata d'ossigeno, carissimo Carlo. Andiamo in Spagna dal nostro Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo. Ciao. Buon pomeriggio. Ci consoliamo con il classico ore 21, Real Madrid contro Barcellona, con il Barcellona che ci arriva primo in classifica con 2 punti di vantaggio, ne ha recuperati 5 nelle ultime 2 giornate, ma mi pare di aver capito che questo è l'unico motivo per cui si può dire che sta meno peggio del Real Madrid, perché c'è il Barça Gate, però il Real Madrid rischia di vedersi sgretolare in 2 settimane tutta la stagione. Insomma, ci sono 1000-2000 motivi questa sera per vedere il classico, oltre al fatto che non essendoci Juventus-Inter, noi come tiriamo serata? Esatto, come facciamo a farci passare l'astinenza? Esatto, è stato fatto apposta, dai. Avete rinviato Juventus-Inter solo per vedere il classico in santa pace, alla certo, fine, senza avere distrazioni. Che stiano tranquilli, la vera ragione è questa, dai. Tutti volevano vedere il classico, anche quelli della Lega, e hanno deciso di rinviarlo, no? Adesso arrivano proposte incredibili, c'è chi dice fate giocare tutta la Serie A da Firenze in giù, quindi sì, possono giocare a Roma, Lecce, Bari, Avellino, sabato e domenica. Siamo al vale tutto. L'altro giorno quando c'era Agnelli ospite, avevo lanciato, perché poi sai, la Juve ha tantissimi tifosi nel sud, no? E quindi secondo me uno Juve Inter, sì, ha risposto che uno Juve Inter a Palermo, di cosa parliamo? A Palermo, stupendo. A Bari, secondo me sarebbe, dal punto di vista, diciamo, dell'evento, dell'happening, sarebbe stato stupendo. Mi fai dire una cosa prima che mi dimentico. Ieri fra piccoli motivi di sorriso e di unità, ieri c'è stato un bellissimo striscione a Napoli e l'ho sottolineato in diretta, lo sottolineo anche oggi, perché arriva oltretutto da una tifoseria che molto spesso viene fatta oggetto di discriminazioni territoriali assurde, e quindi insomma secondo me il concetto è proprio quello, ed è quello di essere uniti di fronte a qualcosa che è molto più importante del risultato di una partita. Beh, o di un campionato. Mi sembra che lo spettacolo lo stiamo dando di massimo. Però quello striscione, Filippo, quello striscione, sì, una settimana, no, ma dopo ti sentiti dire hai ragione. Napoletani, eccetera. Io dico solo una cosa: se voleva portare il classico a Miami, si può portare Juve-Inter a Bari, a Palermo, perfetto, no? O anche cioè, a Madrid, si esporta, perché si no? Porta fuori, sì. E che perché il calcio alla fine è uno spettacolo, cioè lì se uno veramente, adesso vi dico, non si può giocare da una parte, si gioca da un'altra, si riempie lo stesso lo stadio, ci sono lo stesso tifosi che magari non hanno la possibilità di andarla a vedere da un'altra parte. Bisogna essere, io tratterei tutto con maggiore leggerezza, se possibile, però senti, mi sembra difficile. È impossibile. Real Barcellona, Real Barcellona, chi ci arriva peggio dei due? È difficile. Difficile dire. Comunque direi Madrid, perché vuol dire ha già perso quasi completamente, cioè hanno perso la Coppa del Re, hanno compromesso la Champions League e rischiano di trovarsi a -5 stasera, per cui sì, il Madrid, infatti si comincia di nuovo a parlare di panchina traballante e via dicendo. Vediamo, però questa è una partita strana. A me quello che piace di questo classico è io lo vedo in declino, no? Perché le due squadre sono sicuramente in declino, l'abbiamo visto anche in Europa, però poi comunque ha un fascino estremo sempre comunque, che riesce a far sopravvivere questa grande sfida, no? Avevamo Ronaldo Messi, adesso l'abbiamo sostituito, abbiamo messo Ramos con Messi, 41 sfide, bellissimo. Se uno pensa a questo, io oggi scrivevo di questa cosa, andavo a rivedere la prima sfida nel 2005, cioè, no, il classico famoso di Ronaldinho, il Bernabeu in piedi ad applaudire Ronaldinho. Sono passati quasi 15 anni, sono ancora lì questi due, e questo è quello che vogliamo, non lo so, alla fine il calcio è questo. No, cioè, ma è ancora la partita che decide la Liga, che decide il campionato spagnolo, però questo è un elemento di debolezza perché per mancanza di altri contendenti in un periodo però, di aria bassa sull'Atletico. Però è sempre bello, eccetera. Comunque, no Carlo? Interessante, Filippo, divertente. Era bello anche in tempi in cui erano meno forti, cioè. Sì, sì, guarda, io oggi quando mi sono ristudiato quella partita, era bellissimo, quando il Barcellona vince quel campionato, no, nel 2006, non vinceva da 6 anni, la Liga l'avevano vinta, oltre al Madrid, anche il Deportivo e il Valencia, cioè è proprio un'altra epoca, adesso è impensabile, no, perché il Deportivo è in Serie B e rischiava di andare in Serie C, e no, il Valencia la Liga non la vince, e sono cambiati, però resta il fascino di una grande sfida, sì, non ci sono diciamo altri contendenti, però io vado stasera comunque con una grande emozione, magari non è l'emozione dei grandi classicos con Mourinho e Guardiola, no? o Messi e Ronaldo, però c'è un po' il senso di un'era che si chiude, sfida. Che si sta chiudendo. Sì, sì, sì. Sicuramente. Un po' malinconico, eh? Sì, un po' malinconico, però poi alla fine se ti guardi intorno resta comunque, secondo me, una partita potente. Non rinnego né la malinconia né la nostalgia, però poi alla fine, adesso io mi ci stavo preparando, guardavo e dico, vabbè, comunque resta un partidasso. Non lo so, Penso che potrebbe essere l'ultimo di Messi. È meno partidasso di prima. Penso che potrebbe essere l'ultimo di Messi. Diciamo, io questo me lo auguro. Però. Sai perché me lo auguro? Perché se è l'ultimo di Messi, vuol dire che viene in Italia. Però non lo so se è l'ultimo, secondo me non è l'ultimo di Messi. No, secondo me alla fine poi resterà. Però è l'ultimo di Bartomeu. Sì, Bartomeu teoricamente ce n'è ancora un paio, perché il suo mandato scade nel 21 e vediamo se riesce. È chiaro che, sai cosa? È che questo è il grande intrigo, perché Messi, che adesso ha un pessimo rapporto con Bartomeu, lo sta criticando, però Bartomeu dipende da Messi e Messi dipende da Bartomeu, nel senso che se Messi stasera fa 3 gol e il Barcellona vince, allora anche le critiche al presidente diminuiranno e quindi resterà. È tutto molto collegato, è complesso l'argomento, per cui non lo so come andiamo. Intanto passiamo questo classico, vediamo come va col Napoli, perché attenzione, per me il vero scoglio poi del Barcellona è il Napoli, e io comunque continuo a pensare che Napoli abbia le sue possibilità con questo Barcellona, e poi vediamo come, appunto, se siamo davvero a fine ciclo oppure no, perché questo è un po' il tema, no? Certo, grazie Filippo. Ciao Filippo. A voi. Grazie, ciao, Filippo Marericci. Ore 21, il classico Real Madrid contro Barcellona, ore 18, quindi fra 4 minuti e 4 secondi. L'altra partita della nostra Serie A di questa domenica, Cagliari contro Roma. Ci sono le formazioni ufficiali e ve le leggo. Cagliari con in porta Olsen, difesa a 4, schierata con Pellegrini, Clavan, Pisacane e Cacciatore. A centrocampo Ionita, Oliva, Rog, Nainggolan e Pedro, alle spalle di Paloschi. C'è una sorpresa nella Roma, perché non gioca Dzeko, al suo posto Karinic al centro dell'attacco, in porta Paolo Lopez, poi Perez, Smalling, Fazio e Kolarov sulla linea difensiva, Villar, Cristante, Under, Mkhitaryan e Kluivert, quindi il modulo è sempre il solito, il 4-2-3-1. E davanti, come detto, c'è Kalinic, primo tempo di Cagliari che racconteremo insieme. Saluto per Luigi Pardo, ciao Pier. Ciao Pier, sì, ciao. A domani, dopo il giro delle 14, vi leggo proprio di qualche istante fa l'ultima del ministro Spadafora, ministro allo sport. Stress del calcio, penso allo stress degli infermieri. A me interessa salvaguardare la salute, non questo o quel match. Ci sentiamo fra qualche minuto. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Radio 24 si sintonizza con te. Partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio e dacci i tuoi voti. Raccontaci le cose che ami e quello che ti aspetti dalla radio che hai scelto e che ascolti. Aiutaci a diventare la tua radio ogni giorno di più. Vai su radio24.it e partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio. La tua opinione è fondamentale per migliorarci. Tutti convocati. Noi di Pioli siamo veramente contenti, siamo contenti perché è subentrato in una situazione non facile. Da adesso a fine stagione possono succedere tante cose. Tutti noi giocatori, ma soprattutto allenatori e dirigenti, viviamo di risultati. Ci auguriamo di fare una seconda parte della stagione super e sederci poi a maggio al tavolino con lui per programmare la prossima stagione. Se ti dico Ragnik? Sinceramente, come direttore dell'area sportiva, con il dovuto rispetto, non credo che sia il profilo giusto per associarlo a una squadra come il Milan. Questo Maldini 10 giorni fa, a proposito di Ragnik. Poi in mezzo sono successe tante cose, l'intervista di Gazzidis alla Gazzetta dello Sport per dire che c'è un solo Milan. Ci sono dirigenti che lavorano insieme e che non c'è nessun problema. Poi l'intervista di Boban, che è quasi sparita davanti alla questione rinvio di Juventus-Inter, durissima, sempre la Gazzetta dello Sport. Mi sarei aspettato più rispetto da Gazzidis, che ha contattato Ragnik. Elliot deve intervenire, chiarire quali sono i ruoli, qual è il budget, che cosa si può fare nei prossimi mesi. Risultato ieri, silenzio di Elliot. Che significa, credo, come interpretazione, ma adesso lo chiederemo ai nostri ospiti, una sorta di scelta tra Gazzidis e la coppia Boban Maldini. Intanto stiamo seguendo il primo tempo di Cagliari-Roma, 0-0 risultato, ci avviciniamo al decimo minuto, c'è Dzeko seduto in panchina, al suo posto gioca al centro dell'attacco Kalinic. Saluto Franco Ordine, ciao Franco. Ciao Ciccio. Eccomi qua, buon pomeriggio. 800-24-0024, continuate a chiamare perché poi andremo avanti a discutere ancora, se volete, della questione porte aperte, porte chiuse, e anche ad aggiornarvi sugli sviluppi che sono continui. Allora, carissimo Franco, mi pare che Elliot abbia deciso, no? Beh, mi sembra evidente perché per due motivi. Primo, perché Elliot finora parla solo e soltanto con Gazzidis e naturalmente Gazzidis racconta la vita del Milan pro domo sua, non credo che racconti in maniera diversa. Questo è il primo punto. E poi perché una volta scelto il capo azienda non credo che abbia voglia di smentire se stesso, anche perché per portare Gazzidis al Milan ha speso un bel po' di soldi e soprattutto lo ha convinto sulla base di un contratto molto lungo e molto. Saluto sembra... anche Stefano Eragno. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Ciao, buona giornata. Mi sembra sia venuta allo scoperto con le parole di Boban una diatriba, uno scontro molto duro in atto da tempo, di cui parliamo sempre in modo abbastanza informale. Adesso è diventato formale, perché non è certo una novità. No, Giovanni, lo sai benissimo, abbiamo parlato anche mille volte a questi microfoni, che al Milan la situazione sia molto pesante. Adesso è ufficiale. Sì, e mi sembra anche quasi ufficiale, diciamo ufficioso, che siamo i saluti per Boban e Maldini. Stefano, non so che impressione ti faccia questa cosa. Ma dispiace perché non si vede che la chiarezza non è stata certa la cosa che ha fatto da padrone in questo cambio di dirigenza. Un peccato, anche perché poi è venuta a galla questa situazione senza che loro ne sapessero nulla, perciò tramite i giornali si vociferava, però poi la verità poi è venuta a galla, e questo dispiace, anche perché, come si diceva, anche Boban e Maldini che hanno avuto certamente le loro difficoltà iniziali, però anche lo stesso Pioli, con la scelta di Pioli le cose si erano sistemate. Il peccato è che non si possa dare comunque continuità con quello che si stava facendo. Una volta che si era intrapresa una linea giusta, perché comunque questa, pur con delle difficoltà oggettive, adesso si vede anche un Milan che può competere, e certamente che se si dovesse cambiare ulteriormente si partirebbe nuovamente da zero, e questo è un problema, senza poi volti noti che potessero comunque far diventare il Milan un qualcosa di importante con gente che conosce molto bene l'ambiente. Sì, perché poi c'è anche un secondo livello, diciamo che avere prima Leonardo, poi Maldini, poi Boban in società, forse per il tifoso del Milan, non so Franco se interpreto bene, era una sorta di garanzia sulla possibilità di uscire comunque prima o poi da questo momento. No, più che una garanzia, diciamoci le cose come stanno. Elliott, quando è intervenuto in prima persona nella gestione del Milan, avendo già deciso da tempo di affidare il club nelle mani di Gazzidis, pro tempore lo ha affidato a Leonardo perché si fidava. E Leonardo, che arrivava in un ambiente dal quale si era congelato in maniera molto ostile, vi ricorderete i precedenti del famoso derby dello scudetto 2011, ebbene cosa ha fatto? Ha richiamato al suo fianco Maldini per avere la copertura presso il popolo dei tifosi. Poi a un certo punto Leonardo, quando ha capito che dopo le due operazioni Piontek-Paquetà, che sono costate uno sproposito, che non avrebbe più avuto quella libertà di manovra, perché Gazzidis aveva detto che avrebbe lui firmato il contratto, è andato via, si è trasferito a Parigi. A quel punto, per non avere il lato scoperto dal punto di vista dei tifosi, si sono rivolti a Maldini, il quale ha chiamato Boban. Questo è il punto vero. Oggi per la prima volta Gazzidis pensa di potersi occupare anche lui dell'aspetto tecnico, e quindi va a scegliere nel mese di novembre-dicembre, quando il Milan è alle prese con il suo periodo più brutto, va a scegliere questo semi sconosciuto manager tedesco e gli propone di diventare il nuovo allenatore o direttore sportivo, perché bisogna capire poi quale sarà il suo ruolo senza avvertire né Boban né Maldini. E poi dice il Milan è uno solo, ma scusa, ma dovevi pensarci prima. Sì. Allora tu li chiami gli dici, o forse non essendo stupido semplicemente voleva che andasse a finire così. Certo, mi sembra di sia abbastanza chiaro. Ma come valutate l'operato di Gazzidis fin qui al Milan? Aspettate, questa domanda resta sospesa perché c'è il traffico, poi però mi interessa la risposta, perché anche Gazzidis ha un suo settore di riferimento, che è quello degli sponsor, delle partnership, e insomma i numeri che abbiamo letto nelle ultime settimane sono più o meno come quelli in campo del Milan di Giampaolo, tutt'altro che positivi. Un minuto, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, intanto 0-0 Cagliari-Roma, sedicesimo minuto del primo tempo, sta giocando meglio la Roma, che ha già avuto almeno due chance molto importanti di portarsi in vantaggio, soprattutto con Kalinic, che dopo un batti e ribatti al limite dell'area piccola si è trovato a porta praticamente vuota il pallone dell'1-0, ha però messo sul fondo, quindi sedicesimo minuto 0-0, inquadrato Fonseca, abbiamo detto prima della Roma che è la più stanca perché ha giocato giovedì in Belgio, in Europa League. Fonseca avrebbe voluto volentieri spostare questa partita a lunedì, gioca di domenica, ci sono gli altri che volevano giocare e invece non giocano. Adesso 8-0-0-24-0-0-24, se volete andiamo avanti a parlarne. Mi date allora il voto di Gazzidis, Franco Ordine e Stefano Ragno. Franco. Allora, il voto di Gazzidis per quel che riguarda la sua divisione, cioè divisione sponsor, è, in questo momento è 4,5. Stefano? Adesso. No, non ti mettiamo in difficoltà, Stefano. È sicuramente purtroppo quando ti devi fare una cosa e non sta riuscendo bene, certamente ti meriti un'insufficienza. Però io penso che che sia un po' legata all'andamento della società, no? Il problema è che il trovare gli sponsor sono comunque una conseguenza dei risultati in campo. Finché la squadra non riesce a dare continuità e a tornare grande, come tutti ci speriamo da tempo, no? Che possa fare, è normale che poi ti segnalo molto sommessamente che, a parte il fatto che in 18 mesi non è ancora riuscito a parlare l'italiano, ti segnalo che in Lega Pro il Monza è riuscito a reclutare un bel po' di sponsor in Lega Pro. Però. In Lega Pro, però. No, è normale che ogni lavoro e ogni mestiere penso che sia ha delle sue difficoltà, e certamente ci sono dei momenti, ci sarà sicuramente il fuoriclasse anche in quei momenti dove riesce ad ottimizzare anche nei momenti difficili, però adesso è un campo che a me purtroppo non compete e non conosco. È normale che se la società Milan dovesse ritornare grande, anche il lavoro suo diventerebbe un pochettino più semplice, come lo era naturalmente per quelli precedenti che sono stati bravi. Io conosco tanta gente che lavorava e lavora ancora tuttora con meno possibilità di azione, perché ha preso in mano lui, però hanno fatto grande il Milan anche attraverso i risultati, e loro facevano bene il loro lavoro. Io penso che comunque sia una conseguenza quella. L'importante è avere le idee chiare su quello che deve essere invece l'organizzazione, e la dirigenza deve essere una e dar continuità finché non si ottiene qualcosa di importante. Adesso che avevamo trovato il bando della matassa, non capisco perché non si debba continuare così. Ti pare anche di capire che tutto di facciata, anche le cose dette informalmente, no, Franco, su Pioli che verrà giudicato a fine stagione. Qui si è capito che c'è un accordo con Ragnik per 3 anni, vedremo con quale funzione, con quale ruolo dentro il Milan. E c'è poi questo senso di continua rivoluzione, perché potrebbe essere, sarà la quarta rifondazione dirigenziale negli ultimi 5 anni. Sì, no, ma questo è evidente, perché questo dimostra che l'intervento di Gazidis fatto qualche settimana fa, al di là del fatto della settimana scorsa. Sì, la settimana scorsa, al di là della motivazione, cioè è andato a parlare in casetta perché siccome non parla bene l'italiano non si fida a parlare italiano e parla inglese, ma allora che se ne torni in Inghilterra dove parla l'inglese con tutti. Ma dico, al di là di questo, il tentativo di dire il Milan è unito a parole, senza smentire di aver contattato Ragnik, è da dilettante allo sbaraglio. O tu sei in grado, magari dicendo anche una sesquipedale bugia, che non conosci il signor Ragnik e quindi metti a tacere questa vicenda, oppure non lo fare, perché altrimenti... Oppure l'hai fatto apposta, Franco, oppure l'hai contattato apposta per, insomma, forzare la situazione, una situazione che conoscevamo bene, non dimentichiamo che Gazidis... Lui non ha fatto per forzare, lui lo ha fatto perché ha deciso di prendere in mano anche appunto, la parte sportiva. Appunto, quindi ha forzato una rottura che era già da tempo fatta. Il silenzio di Elliot, che poi alla fine è quello che mette i soldi, vuol dire che Elliot approva l'operato di Gazidis, che... peraltro guadagna come un top player, non dimentichiamo questo. È evidente. E su quello va anche giudicato anche nella sua area di competenza. Allora, comincio a salutare Stefano Eragno. Ciao Stefano. Ciao, un abbraccione a tutti. Grazie, alla ciao, prossima. Franco, ciao. Ciao Stefano. Ventunesimo a Cagliari, con il Cagliari che timidamente sta mettendo la testa nella metà campo della Roma, ancora 0-0 il parziale. Ci teniamo, Franco, ordine per Michele, Massimiliano e Gianluca. Michele La Spezia, vai. Salve, buonasera. Vai. La considerazione che volevo fare sull'annullamento delle partite presente all'ultimo respiro, le famose 5 partite rimandate, hanno mancato secondo me il focus che è il pubblico televisivo più che di spettatori allo stadio, che altro, che con questo continuo ribaltare della situazione vengono sfiduciati, non vengono invogliati a continuare a partecipare. Sarebbe stato molto più onesto, porte chiuse per chi doveva o per tutti, continuare su questa linea, a far andare regolarmente il campionato e contrastare l'emorragia eventuale di pubblico, perché magari anche si vede anche nella Formula 1 continui cambiamenti di regolamenti, di classifiche cambiate all'ultimo momento dai direttori di circuito e di gare, tutto che portano via. Sì, c'è un po' di disaffezione, cosa che in realtà Michele non c'è in Serie A in questa stagione, anzi fin qui diciamo fino all'era pre-virus si viaggiava su ritmi da record per presenza allo stadio soprattutto, no Franco? Sì, è esattamente il contrario. Per la prima volta dopo un bel po' di anni avevamo un campionato molto combattuto sia in alto che in basso, oltre che a metà classifica, e questo dava un grande contributo e un grande rilancio a tutto il settore. Il problema vero è questo, cioè sono le parole di Giovanni Carnevale, del Sassuolo, il quale ha detto: ma scusate, ma quando avete deciso di far giocare le 5 partite a porte chiuse, eravamo tutti d'accordo, 24 ore dopo, senza che fosse cambiato nulla, avete deciso che quelle partite non andavano più giocate a porte chiuse, ma andavano rinviate. Questo è il vero, come dire, la vera obiezione di fondo da fare al neo presidente della Lega d'Alpino e al suo AD. Gianluca Fermo, Gianluca. Sì, salve, buonasera. Vai. Guarda, io solamente, buona domenica a tutti. Grazie. Solamente un'osservazione. A mio modo di vedere c'è una degenerazione però degli interventi della stampa, non mi riferisco a voi ovviamente. Una degenerazione. Sì, molto simile a quella che avviene in politica, a mio modo di vedere, perché c'è una confusione di provvedimenti da cui stiamo assistendo nel campo dello sport così come nel campo della politica. Però non si perde però l'occasione in certi ambienti, in certi settori, di strumentalizzare quella che è effettivamente una confusione e anche un'inefficienza del sistema per pensare che vi sia sempre un retroscena, che vi sia sempre qualcosa di losco da nascondere. Io purtroppo ho ascoltato l'intervento del giornalista di Corsport, che nonostante Alessandro Barbano, dottor Barbano, non ricordo il suo nome, però ha detto in un certo senso che non vi fossero pressioni, non era a conoscenza di particolari interventi delle società, ma al tempo stesso ha attaccato la Lega dicendo che manca di terzietà. Mancare di terzietà è una cosa molto grave e che va dimostrata. E dire queste cose. Però Gianluca, il problema è che anche semplicemente a fare i cronisti, e io ho chiarito prima qual è il nostro punto di vista, dove siamo partiti, poi chiaramente noi ospitiamo il parere di tutti, adesso chiederemo anche a Franco Ordine cosa pensa lui. A fare i cronisti, la questione della terzietà l'hanno sollevata anche personaggi del mondo dello sport, l'ha sollevata l'allenatore del Lecce, l'ha sollevata il direttore generale dell'Atalanta, l'ha sollevata il presidente del Brescia, la lettera l'abbiamo scritta prima, se dice qui nessuno ha telefonato a nessuno, sono state spostate le partite e il tuo presidente di Lega un'ora prima ha detto che telefonicamente ha sentito tutti, evidentemente c'è qualcosa che non quadra. Però Franco, se mi dici cosa ne pensi tu, poi andiamo da Massimiliano. Io penso questo, che la differenza clamorosa è questa. Allora, Atalanta-Lazio. L'Atalanta ha chiesto di anticipare da sabato a venerdì la partita. Il presidente d'Alpino, siccome la Lazio non era d'accordo, non era favorevole, ha detto che nulla poteva, anzi, che avrebbe potuto cambiare, ma non avrebbe esercitato il suo ruolo perché la spiegazione classica è perché Lotito è stato uno dei suoi elettori. Invece, nel caso di Juventus e Inter, ha esercitato il suo ruolo. Questa è la dimostrazione che non è stato terzo ed è la dimostrazione plastica del fatto che, al di là dei sospetti e dei racconti della narrazione dietro le quinte, la verità storica di questa decisione è che è stata presa alcune ore dopo aver firmato un comunicato nel quale si diceva che le 5 partite si sarebbero svolte a porte chiuse. Comunicato nuovo che è arrivato mentre la Fiorentina era già a Udine, a poche ore dall'inizio della partita con l'Udinese. Questa è la dimostrazione che c'è stata una forzatura per evitare che si giocasse stasera a porte chiuse Juventus-Inter. la storia. È la e noi siamo contenti, così ci guardiamo tranquillamente il classico e poi con calma credo. E poi con calma vedremo anche Juventus Inter, ci diranno loro signori quando, mercoledì, giovedì, calma, il 30 febbraio, calma. Senza calma, quando Franco, vogliono loro, senza il 13 calma. Maggio. No, senza no, calma, dai, perché, calma. No, senza calma perché bisogna recuperare il prima possibile. Scusa, ma anche scusa Carlo, ma dimmi. Anche questa storia del 13 ma avete sentito cosa ha detto il presidente del Lecce? Sì, sì, ne abbiamo parlato. Il presidente del Lecce ha raccontato che l'amministratore delegato della Lega e il presidente della Lega gli hanno detto che la data del 13 maggio è indicativa. Così. Sì, è una data così indicativa. Gli hanno detto indicativa. Si recupera il 13 maggio, ma non è una cosa seria. Sì, appunto, ma non è vero. Tanto ha segnato il Cagliari, 28esimo minuto. Adesso dice che lo faremo entro Pasqua. Ma non si conduce così un'azienda come quella della Lega Calcio di Serie A. Allora, questo per ribadire che noi cerchiamo di volare un po' più alto dalla questione, l'ha fatto Agnelli, l'ha fatto Marotta, l'ha fatto Francordine, cioè qui c'è proprio un problema di sistema, questo è il crollo di un sistema che è una delle prime 10 industrie del paese, molto bello intanto il gol di Joao Pedro. Bellissimo, meraviglioso. Controllo di coscia e poi pallonetto di destro facendo rimbalzare il pallone soltanto una volta a scavalcare Paolo Lopez, vantaggio non meritato del Cagliari per quello che abbiamo visto in questi primi 27 minuti, meglio la Roma fin qui, ma il calcio quando ce lo fanno vedere è così, capita che poi il Cagliari al primo tiro in porta passi in vantaggio. Massimiliano Lucca, Massimiliano. Buonasera, innanzitutto volevo salutare Franco Ordine che lo seguo anche nelle trasmissioni private. Bene. Parlavo dell'argomento Milan, volevo fare un passo indietro perché per quanto riguarda la disorganizzazione, ahimè capita sempre quando il campionato è equilibrato. Questo è il mio retro pensiero, però purtroppo da anni è sempre così. Quando è equilibrato abbiamo provato ad andare un po' più alto, però noi registriamo anche la tua telefonata. No, va bene, ma lasciamo perdere a me interessa il Milan, quindi a me del campionato, ahimè, quest'anno e per altri anni mi interesserà poco. Per il Milan invece parlerei di serietà e competenza, ma più che altro ha pareggiato la Roma, perdonami, 29esimo minuto, il gol di Kalinic che in realtà ha segnato su assist di un difensore del Cagliari, era davvero impossibile a quel punto sbagliare per Kalinic. 1-1 Joao Pedro Kalinic, prego Massimiliano. Al Milan non segnava neanche con le mani, ma insomma. No, e allora dicevo serietà e competenza perché una società come il Milan che è oggettivamente allo sbaraglio da qualche anno, la serietà dovrebbe portare a un minimo di organizzazione, cioè scegli tre uomini che guidano la società a livello di, come diceva Franco, sponsor, area tecnica e basta. E poi le giudichi, però gli devi dare un ciclo almeno di 2-3 anni, non che ogni anno cambi. E però se questi litigano tra di loro. Bravo, ma però io, nonostante che sono stati, li ho ammirati da quando giocavano, il signor Bob e il signor Maldini, un po' del loro ci mettono perché. Ora non riesco neanche a pronunciarlo io, ma Salemaker lì come Salemakers, si chiama? Ecco, ma chi l'è andato a visionare dopo due partite, come si dice in Toscana, cioè questo qua 20 anni fa non portava neanche le borse, così adesso, come Calabria, così come Conti, l'ultima telefonata che abbiamo fatto c'era Montolivo e erano altri giocatori e ebbi lo stesso sfogo. Ci sono dei giocatori al Milan che ahimè che non valgono non il Milan, ma non dovrebbero neanche, ma non nel Milan, ma neanche in C1 degli anni 90. Aspetta che ti faccio rispondere da Franco Ordine, poi lo salutiamo e ci separiamo, sì. Che arriva Varanato. Mi prego Franco. No, volevo dire che intanto mettere sullo stesso piano Maldini e Boban secondo me non è proprio la stessa cosa, nel senso che Boban comunque reduce da una esperienza a livello di FIFA in cui era praticamente il responsabile del calcio giocato e quindi diciamo comunque è molto più strutturato. È vero che sono state fatte delle scelte, in sostanza Maldini e Boban agli occhi di Gazzetti hanno pagato la scelta di Giampaolo, ma loro sanno benissimo e fanno sapere continuamente che Giampaolo non era in assoluto la prima scelta, ma che la scelta è stata fatta sulla base del budget a disposizione. Se io quando vado a comprare la macchina ho il budget per prendere una macchina scassata e non ho la possibilità di prendere una Maserati piuttosto che una Mercedes, è evidente che non mi posso lamentare se poi la macchina scassata dopo 10 km si ferma in mezzo alla strada. E quindi la stessa cosa vale per Maldini e Boban. Aggiungo ancora una cosa: è vero che questo belga che è appena arrivato per entrare a San Siro dovrebbe pagare il biglietto, però è anche vero che altre scelte, diciamo tra virgolette, non sono state così male poi. Il problema di fondo è questo, e cioè, siccome non esiste il dirigente che azzecca tutto, anche il più bravo di tutti, come sono stati Galliani e Braida, qualcosa hanno sbagliato pure loro, però diciamo, nell'ambito dei 31 anni di gestione berlusconiana hanno più azzeccato che sbagliato, e quindi e qui si vede il bravo dirigente e il bravo e lì c'è la differenza sportivo. Di tutto il mondo. Grazie Franco. Ciao Ciccio, a presto. Ciao Franco, alla prossima. 1-1 tra Cagliari e Roma, 32esimo, e adesso dopo un minuto di pausa arriva Var Anatomy. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Convocati. Var Anatomy con Luca Marelli. Var Anatomy, che è il nostro tradizionale appuntamento per fare il punto su ciò che succede nel mondo arbitrale e ciò che succede intorno al VAR. Questa è una settimana molto importante, perché venerdì c'è stata la riunione annuale dell'IFAB, che è l'organismo che ha il potere di cambiare le regole. Era molto attesa, noi abbiamo già anticipato nelle settimane scorse che in realtà sarebbe successo poco o nulla, soprattutto sui grandi temi di discussione, il fuorigioco, i falli di mano. Però adesso cercheremo con Luca Marelli, che ringrazio e saluto. Ciao Luca. Ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Di fare il punto esattamente su che cosa è stato deciso quindi dall'IFAB, che cosa cambia. Ma in realtà è praticamente nulla, non cambierà praticamente nulla. C'è allo studio la possibilità per le Olimpiadi già, però bisogna vedere se riescono a organizzarsi, di provare le sostituzioni temporanee nel caso in cui ci siano dei traumi, che possono essere botte alla testa oppure degli infortuni passeggeri che possono essere recuperati in pochi minuti. Non mi piace. Quindi, provando a fare un esempio concreto, probabilmente la Juve non avrebbe preso il gol a Lione. Adesso scriverete tutti, ecco, la solita trasmissione di Juventini, Gobbi, eccetera. Però è per semplificare, cioè la Juve prende il gol in 10 contro 11 con De Ligt fuori a farsi medicare la testa perché sta perdendo copiosamente sangue. Probabilmente se dovesse passare questa modifica, Luca, poteva entrare Rugani per 3 minuti, 5 minuti. Sì, esatto, è proprio questa la ratio, quella di evitare che una squadra che ha subito un infortunio sia penalizzata dall'inferiorità numerica momentanea dovuta proprio alle conseguenze di uno scontro, che sia fortuito o che sia dovuto a una conseguenza di un cartellino subito da un avversario. Hai detto che non ti piace, perché? Non mi piace perché è molto rischiosa, perché è molto facile la simulazione di un infortunio per sostituire, che ne so, per un calcio di punizione, mettere un giocatore che sappia tirare bene le punizioni. Mi lascia un po' perplessa questa ipotesi. Mi sembra contraria alla logica del calcio, Luca, cioè mi sembra una cosa che con il calcio non c'entra niente. No, infatti, è una questione che si lega più al rugby, perché nel rugby comunque è normale che ci siano dei infortuni e sappiamo che qualunque giocatore che venga soccorso poi deve uscire. Perciò, non lo so, mi lascia un po' perplesso, mi lascia un po' freddo questa novità, ma la testano proprio perché secondo me neanche loro sono convintissimi. Poi la parte più importante sarà vedere effettivamente quale sarà la modifica sui tocchi falli di mano, perché è stata annunciata non una modifica della concettuale, ma semplicemente una descrizione nel regolamento che sia un pochino più chiara, perché effettivamente l'anno scorso un po' di confusione l'hanno combinata. Quindi può essere che disegnino nel regolamento l'uomo vitruviano, sempre per tornare a dare alle persone a casa un'immagine che conoscono, perché l'hanno vista. Attenzione, perché intanto c'è una dichiarazione del ministro Spadafora che vi leggo fra qualche istante. Prego Luca. No, non credo che ci saranno immagini particolari, semplicemente loro metteranno nel regolamento la differenza tra spalla e braccio, cioè cercheranno di indicare anatomicamente qual è il punto in cui inizia effettivamente il braccio, però non ci saranno grandi novità, l'interpretazione sarà questa. Non hanno toccato la parte relativa ai tocchi di mano in attacco, che rimangono immutati, perciò le reti come quella di Ibrahimovic o quella di ieri di Denswil verranno comunque annullate a prescindere. Nulla sul fuorigioco, luce o non luce, tutte le cose di cui si è parlato nelle ultime settimane. Guarda, io voglio essere un po' polemico in questo caso. È stato annunciato che verranno aperti due panel, uno dei giocatori e allenatori e uno degli arbitri, per sviluppare il tema e per valutare eventuali modifiche al fuorigioco, che perciò avranno bisogno di un paio d'anni. La parte polemica che aggiungo è questa: secondo me è un contentino alla Football Association, perché sono quelli che si lamentano di più, ma francamente sarebbe assurdo intervenire sul fuorigioco, che ha trovato finalmente una razionalizzazione con il crosshair e il VAR. Sinceramente non trovo il motivo per cui si deve modificare una regola che adesso funziona. Che qualcuno non piaccia, va bene, ma non per questo bisogna cambiare qualcosa che funziona. Una curiosità: abbiamo visto le immagini di Hoffenheim Bayern di Monaco ieri, un quarto d'ora alla fine, i tifosi del Bayern di Monaco espongono degli striscioni offensivi nei confronti del presidente dell'Hoffenheim, i loro giocatori li sgridano, poi le due squadre decidono di smettere di fatto di giocare, si passano la palla per un quarto d'ora e si arriva al finale, gara che era sul 6-0, quindi di fatto era già decisa. Ora, seppure per una ragione condivisibile, quindi non è questo il tema di discussione, ci aiuti a capire se è tutto regolare, se l'arbitro poteva intervenire, richiamare a una sorta di combattività in campo, se può succedere qualcosa col giudice sportivo? Guarda, sul regolamento interno della Germania non posso aiutarti perché non lo conosco, perché questo è il codice di giustizia sportivo tedesco, non lo conosco. Quello italiano potrebbe intervenire, perché l'arbitro può richiamare le società, le squadre ad essere combattive, ma in realtà bisogna fare la tara a tutto quello che è successo, al di là del fatto che la partita era sul 6-0 e perciò non c'era nessuna possibilità di giocarsi qualcosa. In ogni caso, in queste circostanze mi sento più di dare un consiglio ai giovani arbitri che ci ascoltano, cioè di non inventarsi nulla, scrivere tutto a fine partita, ma in queste circostanze mettersi da parte, osservare e basta. Tanto poi ci penserà il giudice sportivo. Non credo che ci saranno sanzioni, perché sarebbe abbastanza assurdo che vengano punite le società per aver agito a delle espressioni di inciviltà. È pericoloso, però, è pericoloso, perché se si decide, se viene tutto avallato, c'è il rischio che si passi alle società e alle squadre la facoltà di decidere che cosa fare di una partita. Di farsi giustizia da soli. Certo, ed è comunque un precedente. Allora, ultima parte, vi leggo il virgolettato del ministro Vincenzo Spadafora, intercettato dall'ANSA all'uscita dagli studi RAI di domenica in: un'ipotesi che la Lega di Serie A potrebbe valutare è quella di rinviare la Coppa Italia di questa settimana e recuperare subito le partite saltate oggi. Spetta a loro capire come tutelare al meglio la regolarità del campionato. Mi sembra che il ministro, e abbiamo letto prima che cosa ha dichiarato questa mattina sul Corriere della Sera, stia sostanzialmente invitando la Lega di Serie A a far giocare in fretta Juventus-Inter. Dico Juventus-Inter, poi ci sono anche le altre quattro, però evidentemente toccato dal mare di polemiche successive alla protesta. Intanto, per l'amico milanista di prima, ha segnato ancora Kalinic. Beneficio dell'amico. Quello che diceva che al Milan non segnava neanche con le mani. Kalinic, 2-1, 42esimo, 2-1 della Roma a Cagliari. Luca, mi dici in un flash, ammesso che si giochino le due semifinali di Coppa Italia, chi le arbitra? Un flash velocissimo su quello che ha detto Spadafora, ma è una provocazione anche questa. Ma Juventus-Inter, se si gioca mercoledì, sarà aperta anche ai tifosi dell'Inter che arrivano da Milano o soltanto ai tifosi della Juventus o di altre regioni? Va bene. Io credo per soltanto riguarda ai tifosi di Juventus e Inter che vengano da, mi pare di aver capito, 17 regioni su 20, cioè tolte Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, potrebbe essere questa. Però ragazzi, io non faccio il ministro e non faccio il virologo. Prego Luca. No, ma infatti era semplicemente una provocazione. Per quanto riguarda le semifinali, direi che Napoli, Inter, Rocchi e Juventus Milan Sato. E auguri se si gioca la semifinale di ritorno a Rocchi, per il motivo che abbiamo spiegato prima anche con Xavier Iacobelli, di questa anomalia di un sistema che si regge fin qui sull'ipotesi che l'Inter non arrivi in fondo né in Coppa Italia né in Europa League, altrimenti ha dei problemi di calendario. Ne parleremo. Grazie Luca. Ciao. A voi buon lavoro. Ciao, grazie, ciao. Grazie Luca Marelli. Stefano da Agrigento, 800 24 00 24. Stefano. Sì, buonasera. Buonasera. Niente, io parto dalle ultime dichiarazioni del ministro, che ha demandato sostanzialmente, come sempre, ai vertici del calcio le decisioni. Però i vertici del calcio mi pare che sono inadeguati. Cioè, al di là del campanilismo, della tifoseria. Era una decisione di buon senso arrivare a, come dire, a una decisione che non scontentasse nessuno, perché era semplice decidere su un problema di emergenza come questo, riunire le società e dire: o si gioca tutti a porte chiuse o si rinvia per intero la giornata di campionato. Cioè, tanto semplice, voglio dire. Però giocare tutti a porte chiuse sarebbe stato sbagliato, perché laddove si può giocare a porte aperte è giusto giocare a porte aperte. Quindi, ma no, perché laddove? Mi scusi, ma lei, per come, cioè, lei è in grado di stabilire in quale regioni. Beh, basta guardare adesso, basta guardare la televisione, stanno giocando a Cagliari, Cagliari e Roma hanno giocato prima a Lecce e Lecce Atalanta. Perché, perché chiudere quelle lì dove si può giocare? Lì dove si può giocare normalmente. Dico subito, i tifosi della Roma si sono spostati a Cagliari? Sì o no? Perché se può fare? Non ho capito. Scusi. Sì, ma ci sono. L'amico d'Agrigento non ha tutti i torti. Ci sono dei cortocircuiti, per cui, ad esempio, la Lombardia è una delle tre regioni da cui non ci si potrà andare mercoledì alla semifinale Coppa Italia, o magari a vedere Juventus Inter. E oggi da Bergamo sono partiti per andare a Lecce, gli hanno misurato la febbre e sono entrati a vedere Lecce Atalanta. Uno si chiede: ma Bergamo fa parte della Lombardia come Milano, o Bergamo è un territorio extra rispetto alla Lombardia? Però il tema, qui ci diranno chi ci deve dire, il ministro, l'Istituto Superiore di Sanità. Adesso veramente, ragazzi, è anche un tema molto più grave della partita di calcio. Il cortocircuito creato dal susseguirsi delle decisioni dell'ultima settimana, dei comunicati, dei colpi di scena, dell'andare e tornare, invece è un tema di cui abbiamo ampiamente discusso. Grazie a Stefano. Adesso parliamo anche un po' di Ferrari, perché a proposito di settimana difficile, è stata una settimana difficile anche quella della Ferrari. Ci porta verso una stagione che, ahimè, se è così come sembra disegnata, sarà l'ennesima stagione, carissimo Carlo, di sofferenza. Arriviamo subito. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Della carta stampata ti sei dato, un 6 per quanto riguarda la prestazione. Sì, forse anche meno di 6, insomma, in questo momento. Credo che in qualifica non siamo sicuramente abbastanza veloci, altrettanto in gara, però magari un po' meno, forse per i vari motivi che dovremmo capire. Pronti, credo, in generale come squadra, per affrontare le gare siamo pronti. Che se siamo veloci abbastanza, non lo siamo, e questo ne sono certo. Vedremo la situazione in Australia, ogni team ha i propri problemi, chi di affidabilità, chi di velocità, chi di prestazione, quindi poi quando si arriva in un weekend di gara può sempre succedere di tutto, però oggi come oggi non siamo soddisfatti della prestazione. Queste le parole di Binotto. Intanto è finito il primo tempo a Cagliari, la Roma è avanti 2-1, i gol Joao Pedro, poi doppietta di Kalinic. Saluto Giorgio Terruzzi, ciao Giorgio. Buonasera, ciao. Allora, dobbiamo essere estremamente pessimisti come sono io, moderatamente pessimisti come penso Carlo, oppure pensare che è tutta pretattica? Oppure che ci devono cadere le braccia a tutti? No, non penso sia pretattica. Penso che la Ferrari ha dei problemi di potenza sul dritto. Penso che quello che ha detto Binotto sia la fotografia della realtà in questo momento. Penso anche che ci sia un nesso tra la comunicazione della FIA queste prestazioni, che credo che dietro a tutto questo ci sia in atto una guerra senza quartiere tra i team, che complica la visione di quello che accade in pista. Una guerra che mi pare in questo momento veda la Ferrari perdente. In questo momento dirlo, sì, nel senso che è una macchina che ha migliorato in curva, ha perso qualità sulle rette, che era esattamente l'elemento di spicco della macchina dell'anno scorso. Vedremo per quanto tempo, perché ci vorrà un po' di tempo però per capire un po' di cose che stanno succedendo e sono successe. Guerra senza quartiere per cose esattamente? Per disegnare il regolamento dell'anno prossimo, su quest'anno, sulle modifiche che sono state apportate? In ballo ci sono molti soldi, perché c'è dentro il patto del futuro e quindi una posizione di potere. Sì. Sul futuro della Formula 1. Ma insomma, a me pare abbastanza curioso il fatto che la FIA annunci alla conclusione dei test di aver concluso una analisi sulla Power Unit Ferrari. Sono passati 3 mesi dal mondiale, dalla fine del mondiale. Questa Power Unit è stata ipercontrollata gara dopo gara nell'anno scorso. Cosa è successo in questi 3 mesi? Non c'è una squalifica, quindi non c'è un'irregolarità, non c'è un patto, non so, ma è abbastanza strano, no? Cioè sono in atto giochi di potere, tu stai dicendo? Sì, sono in atto delle cose che non vediamo in pista. Cioè, in pista abbiamo visto qualcosa di rilevante, cioè abbiamo visto che la Red Bull per me è la favorita. Pontivia in Australia, ammesso che si vada in Australia, primo punto, perché è la macchina che ha girato con più intensità e qualità. Verstappen ha poi rinunciato alla fine a fare il giro il miglior tempo, ma insomma, di giornata. Si è visto che la Mercedes è una gran macchina, ma anche qui sei problemi al motore in 6 giorni e tanta roba, no? A proposito di power unit e di monitoraggio, quindi c'è il rischio che la Ferrari abbia sbagliato la macchina anche quest'anno brutalmente? Non credo che sia un problema di quel tipo lì. Credo che sia un problema di altra natura sulla prestazione del motore, però non lo so, cioè, andare ai test è una delle cose più frustranti per uno che fa questo mestiere che ti possono capitare, nel senso che hai un po' di dati ma carenti, nel senso che non sai i carichi di benzina, non sai cosa stanno facendo esattamente, poi puoi avere una visione parziale e qualche indicazione eminente di quello che accade, poi per il resto e soprattutto sulla evoluzione di questa situazione qua nel giro di 4-5 gare è abbastanza difficile dirlo adesso, perché gli elementi in ballo sono complicati, cioè non è pensabile, io dico, non è pensabile che un team come la Ferrari, che migliora la macchina dello scorso anno, non trovi la prestazione di velocità, insomma. Sì, c'è poi quella faccia lì di Binotto, perché quando dice quelle cose lui i dati li conosce i carichi di benzina, conosce tutte le cose che per noi osservatori esterni sono non conosciute. E sinceramente mi ha sorpreso anche la schiettezza e la nettezza con cui ha detto: dobbiamo metterci in testa che le prime 4-5 gare non saremo competitivi per vincere. Secondo me ha detto la verità. Ha detto anche che sono convinti di poter recuperare la prestazione, di poter concorrere per il titolo quest'anno. Però ha detto la verità, nel senso che i dati di pista di questi giorni sono dati di pista. Cioè, è una macchina che paga sul rette, no? Poi insomma, che ha fatto anche delle simulazioni di gara molto felici, ha girato tantissimo, sembra una macchina solida, affidabile. Tutti e due i piloti hanno detto ripetutamente di aver avuto a che fare con una macchina molto migliorata in curva, quindi non è tutto da buttare via. No, non è tutto da buttare via, ma secondo me Binotto non fa pretattica, dice le cose come stanno, ecco. Questo, la mia sensazione è che sia così, cioè che a Melbourne la Ferrari sia la terza forza dopo Red Bull e Mercedes o viceversa. Cioè Mercedes non è una macchina sbagliata, tutt'altro, è una macchina che è migliorata rispetto a una base vincente. Non so dire, penso sia difficile per tutti dire cosa significhino queste problematiche motoristiche così frequenti, perché sono state uno delle caratteristiche più evidenti dei test. Sì, sono qualcosa di anomalo per la Mercedes che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Grazie Giorgio. Ciao Giorgio, a presto. A voi, ciao. Grazie a Giorgio Terruzzi. Direi che siamo arrivati alla fine, Carlo. Siamo nell'intervallo di Cagliari-Roma, che è la seconda e ultima partita della Serie A in questa domenica. Il parziale 2-1 per la Roma, gol di João Pedro e doppietta di Kalinic. Vedremo la ripresa e poi vi racconteremo per tutta la serata anche nei nostri GR che cosa succede intorno alle partite che invece non si sono giocate, e soprattutto a Juventus-Inter, perché pare di aver capito che si tratta, come dice Pier, di materia liquida. Sì, ti lascio il microfono questa settimana, sono curioso di vedere se riuscirai a raccontare del calcio giocato. Ci proveremo, in bocca al lupo qualche modo. Caso. Io ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Valeria Bernardi, Paolo Corleone che si sono alternati in regia, Tutti Convocati con me torna domani dopo il GR delle 14, mentre Tutti Convocati Weekend vi aspetta domenica prossima, rigorosamente in diretta, alle 17. Ciao! Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.